Almighty. Mamma mia. Ehi. Dormi. Ehi. Attacca lo pei. Ti lascio dormire. Ebbene, abbronzati sei oggi. E lui. Bravo. Poi la crema, se no da poi si brucia, In pantaloncini, lo so. Mi sono abbronzato. Certo che se stai al sole, almeno un paio d'ore, brucia sì, no? Non lo credo. Mi ero un po' curioso, passeggendi. Allora, mi sono cazzato, eccomi qua. Allora per l'ombra è chi? Ancora c'è il sole davanti qua. Scatta. Brucia anche. Poi. Comportatele solo, eh. Avvicina la finestra. Col 5. A proposito, aspetta che ti cerco quella cosa che mi hai chiesto l'altra volta. Adesso che me l'hai ricordato. Aspetta un attimo, Vedo un po' se c'è, dai. Eventualmente prendo uno anche del zastone, capito? Una del 5 e una del zastone. Che bala! Attento lo chef. Grazie. Attenzione, Battisio. Senti. Sì, dottore. Buonasera, come stiamo? Come si va? Peri. Ciao Mari. Dimmi tu. Mi ha domandato come si va a Peri. Un po' a Peri, un po' in macchina, no? Sì. Ma siccome ne più a piedi che in macchina. Ma infatti adesso non c'è molto caldo, per cui si può camminare a piedi, là. Però più tardi andi da voi in avanti per un bel ricaccio, visto che non conveni, Vabbè. Certo, cosa vuoi fare? C'è mangiano oggi sta zia Pesci al pomeriggio. Infatti. Vabbè, è cominciato a casa, ma io ho giocato a dormire da ciasera, no, che ho ciasole. Atta. Però lo bravo a mantenere ai sassi più risori, a chi bruciava dai rubretto. L'ho visto che era... vabbè. Ma adesso sta cominciando il freschetto. Come entra sole c'è l'umidità, capito? Domani mi sembra un folosso. E da macoli a posto Eva. Siamo qua a farti vento l'Eva. Sino da poi non ne fasi più. Abbassamento di temperatura, ma io sei tutto in tutta Europa, che fa brutto. Vedi, Salvatore, sa che sa fa. Vediamo un po' cosa fate. Non ti ripiace forse, altro non puoi fare niente. Andiamo. Aspetta, mi sento al drenzo, tu. Da entro con l'astro, va. Sono qua, Gianmari. Scommetto da qua, non mi senti? Abbastanza bene, chiara pure. Gommino sono. Oggi ho acceso questo qua. Se me ne vada bene. Che era di quell'altro che ci avvivi? Cazzo. Questo è l'altro, il GT5 questo è. Chi su gli si vede? Voglia gli si vede chi su. Ok. Tutto il giorno acceso. Adesso lo spengo e c'è l'altro, va. Puoi adoperare anche quello, mi. Ma non c'è questa cosa in mano, capito? Fa così. È diversa l'occasione, là. È diversa l'occasione. Cos'è, Gianmari? È tutta un'altra cosa, là. Aspetta un attimo, ecco qua. Già sta funzionando bene. Rimane al docchetto così. Non funzionava più nulla. Che a te diventa di macchina, rimane la sera. Non mi sono riuscito, Perché? A chi? Faccio tutta la memoria, anzi. Sì che ci mandasse quando la Lucca, me l'ha portata a fare la Lucca, lo mandava. 10 minuti e l'ha messo a posto. Lucca è sempre in mezzo, è se gozzi, c'è un grido. Infatti. No, lui è bravo, dai. Bisogna dirlo, è bravo, veramente. Io hanno giù un preciso accidente. Aspetta, l'ho visto come fare, però magari se è poco non vorrei dire un blu più. Lo è per me, capito? Metto 10 minuti e ha fatto tutto. Meglio così. Allora, a chi? Poi tutti i criteri in inglese, capito? Però evidentemente lo masticheggia un poco l'inglese, capito? Io masticheggia meglio di me puro. Allora, io ho studiato tontologia. Sì, non sei sicuro di masticheggiare l'inglese. Magari che non masticheggia. Allora, a che cosa si può fare? Ma... io so che faccio a canale e si sbaglio, da buono recibiamo poi la pulce. Andiamo, vai, andiamo. Ti puoi immaginare che ci sono che bravi io, per carità. È inutile, ragazzi. Però, già funziona bene adesso, va? È meglio così. Io qua te ricevo benissimo. Con quale sei là? Quello là? In quello sempre stato operando. Va bene, va bene. È un bombo. Non funziona così. Ma poi quando si usano, si trattano bene, gatta. Gatta, tu non è tranquillità la questione, capito? A me mi è presentato un numero che ballava, e ha provato a toccare, invece ha quasi tutto. Ma l'hai toccato e si è imbrogliato tutto. E allora, poi non sapevo come fare a risaltarlo, capito? No, non lo mastichetti l'inglese, va. Se no bastava portarlo, lo spegnerlo. Ma si resettava da solo. Chi c'è diverso, dai. È diverso questo. Questo qua, quando vedo che si sbaglia, non riesce a pulire l'appoggio. Le rifiuto, lascio un po' di minuti e si rimette da solo a posto. Sull'altro invece devi toccare, lo devi spegnere, devi toccare un tasto, mentre che questo, il tasto non lo devi toccare un'altra cosa, capito? Chiamalo, mi dammetto che il tasto è. No, questo già, quando vengo non riesce a pulire l'appoggio, ne rifiuto e si mette a posto da solo. Se lo risetti, sì, già lo grido. È quella la faccenda, bene, chiama Bacchisio, chiama. Attenzione, signor Bacchisio, è sicuramente in campagna e quindi no, non so cosa ci verrà a Ziso, boh. C'è vento, la portata è lui, Attenzione, signor Bacchisio, boh. Vabbè. Scatta, che c'è? Come siete passati? Sì, ma che c'è Maduro che non si è ammettato che ha preso l'orrido su a Danzi? Non lo so, Ma con chef, no? Anche il vicino, solo Luca e basta. Sempre lo faccio male. Luca! Marco Luca! Oggi i calzoncini a Brosene si terrazzo qui su. Deve essere tutto bruciato, va. Sicuramente sarà in spiaggia, sarà pigliato lo sole. Terrazzo era, il terrazzo, in pantaloncini, a petto nudo. Pareva il mare, Maria, di sì. E ne vuoi. Allora, che ti ha rimasto in legge? Dici che si è abbronzato. Giulia. Va. Attento, Graziano. Graziano, sarà in campagna? Non credo a quest'ora, no. Non credo qua a quest'ora che sia in campagna, perlomeno. Grazie, è da fare. E allora insaffarato, o a pedammuglio. Sarà a pedammuglio. Lo sente su tutta la via oggi, tu sai, allora è campagna a filo, a Ruggeri. No, là ti a Ruggeri, è da Baida. E non può far nulla, va. E allora, è da Baida solo, e va a assaggiare, se va bene, se non va bene, capito? E là si travagliano, sta fumicheggiando, non sta fumicheggiando più a Bitu. Infatti, deve fuggire la Baida da lontano e bu. La finita la pacchia, cura caffè in mezzo. Attenzione signor Marchisio, vuol dire che chi sta ancora? Ancora va in campagna allora. Anche magari ancora sono i zii, dopo c'è appunto un ridozzo. sì, anche tu è la dirigenza, sapevi ai nonghi. No, perché a Rigetti si rilassava ogni sera, no? Non lo so, no. Certo, prima di Curigà. Allora è zafforato, là. Allora è zafforato. O è contento ancora di fosse della Calafiore, a chi si è sbagliato, che ha contato il Manzano, e si è sbagliato, vai a tornare a contare. Andiamo. Però signor Bacchì, conta bene lì, non sbagliare. Allora le ha radito. E dove sei uscito già? Passeggio? No, stavo facendo qua, quindi prima me lo vado, prima mollavo. Ha fatto che una bella giornata anche oggi, vai. Sì, una bella giornata anche oggi. Domani mi pare che è nuvoloso o che sia pioggia, chissà che piovia. E si chiede, se ne comprerà il bio il tempo. Come il tempo? A mercoledì, se la dobbiamo trovare, la dobbiamo trovare mercoledì o giovedì. Faccio la baracca sempre in posizione. Ma con Luca Montanaro si è. Poi ancora, chi se va ancora in giro? Luca Montanaro! Io se ne è andato in giro, se ne è andato, va con le belle giornate. Giovane, tempo suo è tempo di loro. Infatti, è tempo di loro. E allora chi se andai, capita già in casa. Non saranno. È più in giro, gatta. Credi che io pure se vengo che bella da lì mi stesso oggi non vi so che c'è da che lo vende cosa bene so che c'è lui c'è a farmi due baci che so che va da Luca sto Manzano da voi sto rientrando ma gli ho fatto due baci a veri di noi che andrei da casa una mezz'oretta a Baia Viu Certo. Dai, oggi mangiato mi sono riposato, ci sono portato una sdraia ivi a un ciassone, però non ve la fate a mantenere i busoni. Solo li vedi e da rigiro ci sopra ombra, a chi ci sono è troppo un gatto. Sì, ma così che come si sa accortenne, se no è menduia, Vuol dire che... C'è accusato, vuol dire una gara di entrare. Buonasera, avanti. La porta aperta. E anche questo è stanco. Tutto il giorno in giro era, adesso è stanco e non ha voglia di entrare. Sì, Giomari. No, se ne ha venuto e non ha detto che non va con entrare. E allora? Che saluto gli ha fatto piacere la sera, va. Attento Luca il bello, e che domani ancora ho ciassone, ho sempre dormito e ho pensato che subito i curighetti. Ma non sarà andato a pescare no per caso, non vi è andato no, è giunto da dentro Manzano. A pescare, non vi è andato, è tutta in casa oggi, a Bronzetti, se tu giochi in sede, a Bronzetti sugli in terrazzo. Andiamo. E allora, invece andare a piccare. Ma è... No, va a mezzo, magari se no era andato, va. Ah, non a mezzo, no, Giulia. E allora, non è mezzo, se no magari era andato. Beh. Allora, una gana, no, lo saccio. Purtroppo. Io stavo facendo cosa qua in casa, non potevo uscire. Tu hai tutto pronto, tutto, ancora non ti sei uscito mai niente. Ci sono queste cane di Vendemiro. Ma è tranquillo, se vedo le vostre fotografie, lo bongo nel coso. Su internet lo bongo. Quanto paga l'assicurazione tu carrello? Carrello paga, mi pare, 32 euro. A tutto l'anno, no? Sì, tutto l'anno, 32 euro. 53 euro mi pare che pagano il gommone, più 24,90 di bollo del carrello, 200 euro in tutto. Ah, 200 euro in tutto. Ah, che bollo paga, così è. Ho detto 100 euro in tutto. Io pensavo che pagava solo l'assicurazione e basta, invece paga anche il bollo. No, paga anche il bollo perché c'ha la targa, c'ha. È come un rimorchio. Ah no, ecco, c'ha la targa sua, c'ha. Non è che c'ha la targa della macchina, no? No, c'ha la targa sua, se lo lasci fermo posteggiato non gli fanno nulla perché c'ha la targa sua. Ah, ecco. Noi perché io ho la targa sostitutiva, la targa della macchina mia, capito? E quella ce l'ho anche io dietro, quella ce l'ho anche io, quella lì, quella gialla. Infatti, quella ce l'ho. Vabbè. Solo magari tu il carrello puoi dare a un altro, invece io non lo posso dare a un altro il carrello. Sì, io lo posso dare, se mette la targa sua dietro, un pezzo di gassone e coso, e cammina. Invece io gli metto c'ho la targa mia, ma se lo devi attaccare a un'altra macchina bisogna ponergli un'altra targa con quella targa lì. Ehi, è come la mia, infatti la mia è la targa sostitutiva, il carrellino non lo posso dare a nessuno, capito? E quello è. Perché è immatricolato per la macchina tua, è immatricolato, ce l'hai tu nel libretto, invece io c'ho il libretto a parte del carrello. Ehi, infatti è così. Bene, bene, va. No, mi aspetto 10 minuti, dai. Entra in ufficio, come dice Graziano. Sì, sono qua. Vamos a ver Italia. Attento, canale. Canile 7. Allo. Attento, signor Tore. Chi va là? Avanti, su questo canile. Oh, signor Marchisio. Buonasera anche a me. E anche a me. E allora, tutto a posto, niente in ordine? Tutto bene, Tore. Tutto di lusso. Come ti mangi così basso? Ero fratello dello Duglio, questo passaggio. Certo, andiamo. Basso sono tu. No, del coso, del radio, si è appena basso, però... prova a vedere. Guarda adesso, me lo sto mangiando questo cavolo di microfono, guarda un po'. Ma sta attento, mi dice Maro a ingudie. Certo che andiamo a vedere. Bisogna bucare un microfono più umano. A me mi pare che bisogna rampassi tutti in laga. Come ti dici il proverbio? Lo guardate a carezia. Sì, io ti gusta nel bongo, infatti stavo leggendo su internet che quando scaldano parecchio c'hanno dei problemi. I problemi l'ho giocato fuori, distrutto. Infatti è così. infatti i gusti gli sì. E purtroppo è così. Ma io lo voglio aprire, voglio vedere se c'è qualche trimmer all'interno. No, non ce n'è, no, Bacchi, non ce n'è. Ho guardato nel coso in internet, ho trovato chi l'ha smontato e cose, è una catturetta e no, non ne hanno del coso. Aumentano soltanto con i tasti. Ma se non sai come cavolo andare, cioè, l'ho incasinato mille volte. Ho cominciato a provare questa parola, non è lui, non è lui. Alla fine si è incasinato, sono buttato un po' di dura, sono utili, scade poi l'ora in linea. Ma che io sento bene, sei forte, mi. A me arrivi a fondo scala, Ma è la modulazione che non c'è. La modulazione è quella. Quella è così, E bisogna mettere nella morsa in campagna. Ma così non è finta, se c'è che cosa. Sì. Così, quando la accendi, biglia a vugu. Sì. Vado in compagnia all'altro. L'ha già montato, la testa è già vampato, ma c'è dentro un frontalino che mi è servito per questo. Vabbè, tuo cugino non ha altro di che tipo come te che ti fa giù. Di che cosa dà il mio cugino? No, c'aveva l'altra volta, è 231, a me mi ha dato 220, di 221. Il 221 parte da 380 in su. A noi serve da 4,40, da 400 in su, e il 2,31 era quello lì, e mi sono sbagliato mettendo nella scatola, e mandamelo allora. Cos'è Bacchì? Si è sbagliato lui mandandotelo? Sì, ha sbagliato lui mandandomelo allora, invece di mettere il 31 ho messo il 21 nella scatola. Cata, è un bel baglio, Sono uguali come coso, come apparati, sono uguali identici, solo cambia la cosa, la sigla e la potenza, è la più largo di banda. Cosa ha detto? Che te lo manda? Ha venduto, non venna più, quando lo trovo ci trovando uno. Si era venduto, cazzo, è soltanto che d'altro, invece di vendere su, ha venduto l'altro. Ha venduto pure il suo, li faceva io. Se ci fini tu io a cosa? Oristano. L'ha comprato uno di Oristano. E ha fatto bene. E allora vuol dire che è un radioamatore chi su. È un radioamatore. Ma oggi bocchio però, oggi bocchio la spedizione io dopo sciacquara. Si sta venduta. Certo. Anda. Quindi te lo sta cercando uno? Adesso appena gli entra qualcosa in mano me lo fa sapere. Speriamo se mi ticheggia. Se no, quando viene coso, è estate adesso. In luglio, se stato, si fa vedere. Sono cavoli sui, sono. Andiamo. Certo. Razza di faglio. Ho sbagliato mettendo dentro la scatola. Infatti c'erano due staffe, c'aveva addirittura, due staffe. Se è già così, sì, due staffe c'hanno quelli lì. Ma sono buoni anche, solo che la frequenza è che non andava bene. Come così sono buoni? No, era un chivoso, era un chivoso. Però a me me lo lasciava €70, 75 per essere esatto. A quello di Oristano gli ha fatto pagare €120 in offerta. Vedi, certo. Comparati costano un bel costano. E poi sono apparati buoni quelli lì. Sono apparati professionali, sono buoni. Adesso era a Bergamo in fiera. E vediamo un po' cosa cavolo ha fatto, non l'ho sentito questi giorni. Basta che lo chiami stanotte. Diglielo, cosa, catacchiso. Se che vai, quando è casa, bisogna avere problemi. Vabbè, che mezz'ora di cose che fermo noi. Noi andiamo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, tre quarti d'ora al massimo, quando è, sennò non parliamo mai. Andiamo. Accidenti, non si ne fa nessuno in una montessa, perché è la radio. Oi! Catta, che cosa già finì in vendita? Catta ma costano 300, 250. Costano. Su internet a voi già venire, usate nuovi. Noi costano un buono, costano un bel costano. Purtroppo è così. Io domani devo portare la macchina alla Citroen a farmi venire a portare la radio. Ma non te la posso portare ancora? No, mi ha dato l'appuntamento domani mattina alle 9:30. Deve entrare sul coso della macchina e poi deve entrare sulla radio, deve entrare. E togliermi quel bip che c'ha, bip, bip, bip. Allarme vai. Capito, io allora mezzo che stai andando. Sì, no, deve entrare sul coso, deve entrare sulla radio e mettermi a posto. Fammi mettermi invece che nosci, mi devi punire, per il cavetto USB. La presa ti deve fare. La presa ti fa allora, io vabbè. Fatto se non la vedo più, tanto è una cosa che serve sempre. Sì, no, ma poi devo guardare se funziona con il coso, ci devo mettere una scatoletta che fa da USB del coso, può attaccare il telefono, fa da Bluetooth con il microfono e mettere la scheda anche, quelle schede piccoline che c'hai tu nel telefonino. Sono in miniatura solo tu quelle schede, proprio le tagliano. E non vanno bene solo a quel tipo di apparato, gli altri apparati non ci vanno bene. No, solo che devi entrare con lo strumento, devi entrare dentro la radio, devi entrare. E agevolare il coso, il cavetto devi agevolare. E anche in quella, anche l'altra andava bene la radio. E io invece a giambatta. Vecchio hai. Tu avevi soldi in più da buttare, dunque esci, ti rampendo e compri giù la nuova. Sì, perché questa che ho messo è MP3 e mi esce la scrittura nel coso, nella radio mi esce, nello schermo mi esce la scrittura dei CD. Anche in quei cosi là esce la scrittura, quando metto in funzione il cavo esce la scrittura anche con quello. Adesso non esce nulla perché non c'è il cavetto. Con il cavetto no, però con i dischi mi esce la scrittura, mi esce. Quando inserisci il CD ti esce la scrittura. Anche nella mia, anche la mia fa così. Adesso non c'è nulla, esce scritto non CD. Poi inserisci il CD e ti dice che cosa stai cantando. Ciucchicciù. E lo mio, a ciucchicciù mio. Dopo di tanto si fa sentire ogni tanto. Così non sei uscito sta gira. Ciao Antone. Ciao, sono uscito. Tanto c'è una puta. Ciao, a me non ha senso fila di... Non dico di... Si lo scopre. La fate... Cioè, non c'è più dove c'è. Becco! Ehi, ha registrato il becco. Ehi, ormai non si viene più. Cosa te ne vai? Io ho registrato e l'avevo incontrato a terra o se l'avevano imbigliato. Andà bene, aspetta che facciamo entrare anche Graziano. Avanti Grazia. Buonasera circolare a tutta la ruota. Chi c'è Tore su questo cerchione? Sì, guarda c'è Antonello e Bacchisio. Avanti Bacchi. Sì, salutiamo al dottor Graziano. Buonasera dottor, come se la sente? Saluti anche la signora. Avanti dottor, com'è? Così là, sto buscando meglio, andava bene ma stessi, ciao Bacchi, ben sentito, già riposo, niente campagna. Sono salito poco fa dalla campagna, poco fa sono salito, capito, ero in campagna, oggi bella giornata. Mi chiedo scusa, Antonio non l'ho salutato, ciao Antonio, buona serata, scusa se non sono stato prima, ero distratto, non decidio. Avanti Antonio. Benissimo, fa circolazione primo. Ma sul tetto devi andare perché? No, guardalo dal cappellino, non so che già che sta qui. No, saranno, non si più 20 anni, no, non hai capito che. Cosa di solito, cosa quasi da partiti, una cosa, cioè, non sale comunque la settimana da guardare, quindi è stato per me, mi ha fatto giovane, si vuole salire a proposito di parato, e così ha, così ha, per la prima per quello che ne vale. Largo ai giovani, Antonè, largo ai giovani, lasciamoli andare i giovani, i vecchi devono venire giù a guardare. Così è, grazie. Eia, ehi, così è. Antonello pure è diventato vecchietto, ma sul mio tetto già ci può salire benissimo. No, è un terrazzo, già l'ha visto lui Antonello, da me è tranquillo il tetto. E beh Antonello, e poi Antonello c'è già salito qua, quando ha piazzato l'antenna della 27. Non è così Antonello, ti ricordi? A voi mi ricordo, mi sembra che erano 70 anni, mi ricordo male, forse Perché c'è quella pedana. All'esterno metto la scala appoggiata, ti posi una cosa, poi ti metti la scala e si e fare 5 gradini o 6 gradini insomma. E sei già sul terrazzo, da me è tutto terrazzo, ma chi già l'hai visto e già viene bene. E poi è laterale, attaccate le staffe per l'antenna, dunque già l'abbiamo piazzata tranquillo. Tranquillamente la porterò a piazza con Antonello. È già finita. Va bene, riprenditore. Sì, certo. Oh, gioia, che andiamo per andiamo. Tutti sciancati siamo. E cosa vuoi fare? Li dai, gli acciacchi, lo sfruttamento durante la vita lavorativa. E adesso ne paghiamo le conseguenze. Dopo che ci hanno belli che sfruttato, così e cosa ci puoi fare? Ma è la vita, riprendi Bacchi. Vita da vecchiaia, grazie, vita da vecchiaia. Adesso lo bisogna lasciare largo ai giovani, i vecchi devono andare giù a guardare, boh. Tora ancora il giovane se la può, ho capito. Ma io non ho più i 20 anni. Non ci sono più i 20 anni, smagnate i miraggi, grazie ai 20 anni. Adesso non ci sono più e dunque andiamo con i piedi di piombo. Così Antonello. E allora, è così sì? E che sono cambiati adesso? Io con Marco Alfa Romeo, con il mio cognato, ci ho lavorato a fare il manovratore, figura di tutto. Io quando andavo con cognato mi scendevo i cantoni della Santa, mi scendevo a mano, uno a uno, fino a giù, senza compiano, quindi mi sono piantato le ginocchia, tutto il corso, avevo 5, quanto era? 30-40 mila lire al giorno, una cosa del genere. Poi salito due di quei bidoni da 20 di cemento. Capito? Praticavo due muratori, dovevo stare la pezza uno all'altro e facevo le scale, lo sai le ginocchia come me le sacavo? Non so mai come se c'è più cartilagine, figurati. Proprio dolori allucinanti. Ormai aprite, aprosi, quello che è meglio pigliata. Ehi Antone, i cantarelli si chiamano i ghissi. Le cantarelle d'impasto, per l'impasto. Anche io l'ho fatto quello, cosa ti credi? A scendere, a salire, e anche da solo, scendere, salire, portarmi sul materiale, prima, tutto canto, tutto l'occorrente, da poi a piazzare il burro, a rasura. mi salivo tutto il materiale, mi facevo l'impasto e poi me lo portavo su tutto l'occorrente che mi occorreva. Una volta c'avevo tutto su, salivo e piazzavo. Quando veniva tornava a fare a giorno e l'ho fatto molte volte, l'ho fatto anche da solo questi lavori così. Va bene, Tore, che a Tore mi ha messo la tiozza, lui mi dia sempre andenni, durrenni, andenni, durrenni, a sempre. Già mi fa. In via Cristoforo Colombo, quando vedi la radio, a tiramenti, di un abbasso di tromba, gà. A te ricordi, o se no dove c'era il tabacchino del signor Renzo Muglia, che ti vuoi ti sei passati? Ti veglia sempre io. Che tu hai? E tu lo dicevi? Le prende il signor Bacchini. Ehi, è così. È così proprio la vita. I tempi sono cambiati però, grazie. Aveva accolto lo cigarro più nuda, aveva l'ascensore, per il motocarico, per la gru, per il monitor, per le varie. Ormai a contro si fa più nuda, gli operai da basso sono signori, sono dei super signori. No, le... Ehi, ragazzi, ma se lavori con qualche privato, gli accarra ancora a contro, non ti preoccupa. E se lavori con privati così come ho lavorato io. In cantieri esiste, signori, ma però in privati, se non è organizzato bene, gli accarra ancora a culto. Io dopo lavoravo, quando facevamo anche ristrutturazioni di facciate, di appartamenti del mio principale, mi piazzavano un botto e mi carravo tutto quanto a culto, pure in Natal Monti. Usa questa cara, al limite se la candela mi indubbia mi la garruccola. E già si fa ancora, i privati, chi si molti di fa, mi la dimmi che ti sfruttano più di più. Ehi, è così, Avanti, dottor Antonello, in campagna da 6 oggi. Sono più di 15 anni che sono qui, da 6 anni che non ci sono mai capelle della campagna, figurati tu, io non so neanche più come è fatta, se c'è, se non c'è, se ci sono le mura, se c'è il soffitto, non so niente, no, non me ne frega niente. Dice te lì, non ha giocato il culo abbastanza io lì quando scendevo con Batta. Ogni giorno scendevamo a piedi, poi da lì aveva preso la macchina, scendevamo in macchina e alle 6 del mattino mi svegliavo. Andare a fare a cosa? Ad accogliere i finocchi per portarli alla, come si chiama, alle 8, alle 9, alla in una frutta e verdura, tu immaginati quel ghiaccio che c'era, e la neve dovevo lavare i finocchi in mezzo all'acqua. Quindi, fai le cose, per rovinarsi la macchina, peccato per questo di andare a vendersi la roba, capito? Facciamo i mazzetti, i finocchi, giusti, perché lì deve fare cose se. I finocchi riuscivano quelli grossi, allora si lasciava con l'acqua della fogna, non è che si lasciava con l'acqua normale, se tu guardavi si lasciando con l'acqua della fogna ti si muove in galera. Prima non è più facile fare il lavoro, Antonio, adesso magari c'era il robo più alto della casa. Ah, non lo so, come non sono più sceso io. Siamo quella comprata a fianco a noi, ha fatto il ponte nuovo e dobbiamo dargli da parte. Poi non so quanto deve volare, se vuole dargli 3.000 euro, 1.000 euro, non lo so. Perché è costato dentro di 10.000 euro quel ponte di legno. Con quella specie di legna lì che ci stavano piazzando. E perché era l'unico modo che potete passare. Perché dalla parte della bettolina non lo fanno entrare, capito? Perché ha comprato non so uno e quindi non lo so mangiare di pensare. Se la lasci così abbandonata il comune te la spruppia, no, e non fai nulla da voi. E intanto per quello che ne vale tutta la campagna, non ne vale nulla, se vale vale 5-6.000 euro, allora va, se ci siamo messi in benzina per pulire ogni mese e ci scende a pulire 12 spugliatore, che se la prende il comune non mi fate nulla. Grazie, a dire a tua zona cosa deve fare. E vedi Antonè, mettila sull'occasione. La vendi, magari che anche lui si la biglia, basta che non spari un bel, sennò non ne vendi nulla. Forse qualcuno se la compra, qualche impresario, non so, vabbè, ma lì non mi sa che non si poteva costruire niente, così era. Lì non si costruire più niente, capito, perché c'è la fogna, non hai capito niente. Aria, non so più fare niente. Devi lasciarla così com'è, hai capito? È molto pericolosa nel caso dove funziona una bomba d'acqua, lo sai di notte quando se vai lì a abitare dove c'è un canotto. Già lo so dove già. Lì puoi fare solo orto, sempre che non ti si allaga, è vero. E niente, un orticello si può coltivare con una barracca o con un arlotto. E niente, e vabbè, caga a gara di bacio l'orticello se lo fa. E se te te voto, però quel pezzo bello pulito, già piantimi, Antoni, la gara vivo. Sì, io sono già voto, mi compro una casa in legno, ma c'è una casa di quelle prefabbricate, costano tanto, le case prefabbricate. Poi l'affitto ai comunitari, mi faccio dare, capito, 500 euro di mese, faccio dare, tanto sono 90 metri quadri a voglia, gli faccio il posto per la fogna, il posto per l'acqua, e se la posa, uso gli accessi, quindi. Avrei fatto invece una casa di tolleranza, ci avrei messo le negrete, i cinesi, le russe, tutta la mondezza che va a prendere niente, vero Tore? Ehi, grazie, vero vedi, anche Macchizio me la appoggia, Macchi, cosa ne pensi di dire? Io avrei fatto la stessa cosa, rende più dei finocchi, più dei ravanetti, più del cavolafiori. Piacita, se lo credo, c'è Antonelli, datti da fare. Marino lo sta chiamando, Marino, dimmi. Sei Santiago 1, Marino, ma dove sei? Adesso non ti sento più. Grazie, ti stavo chiamando. Non lo sento io, Marino, come me non lo sento. Marino, mi senti? La verità non so se è Marino, c'è uno che si sta chiamando, mi sembra Marino. Allora ti sta chiamando Graziano. Arriva quasi a segnare uno, sembra, non lo so. No, negativo, non lo sentono, nulla. Tu, Tore, a nessuno senti. Aspetta che forse lo sento io. Marino, ma Andy, catta. Arrivi proprio terra a terra, rimani fermo dove sei, ma camminando in macchina stai. Boh, non intendo più. E prendi i bacchi. Io a Marino non lo sento per niente, neanche un tacchetto si accende, nulla, non si muove per niente lo smitter. Dunque non arriva proprio nulla qua. Nulla. Graziano dice che lo ascolta, Graziano, ascolti tu. No, negativo, non lo sento per niente, evidentemente sarà in qualche zona Sassari negativa, in macchina, non lo copio per niente, perché quando è a casa sua qua già lo sento benissimo, col portatile, però vuol dire in giro in macchina, in qualche posto sarà sicuramente. E c'ho il portatile, magari con l'antenna esterna l'avrei sentito, ma va in un attacco, lo volevo attaccare, ma stavo facendo cosa? Stasera, quello là, e un altro giorno là. Non ho sentito neanche tu, io ho sentito che chiamava un fattore, poi a la buona di pensiero, eventualmente c'è qualche giorno, sicuramente, eia, riprendi Torre. Sì, io ti sto facendo delle giornate che per la Dinamo. Ma va, sono in pausa. Cazzo, sta le 8 solo. Beh ragazzi, io chiudo, da va che ci ha mandato l'orario. Ciao. Ce la sentiamo domani. Ciao Tore, ciao Antonello, ciao Bacchisio, forza maggiore, mi devo fare l'insulina. A domani e salutone a chi è in ascolto. Rilancio a te Bacchi, ascolto Finalino e poi chiudo. Riprenditela. E io me la riprendo io, ciao Graziano, buona serata, grazie delle quattro chiacchiere che abbiamo passato insieme, saluta la signora, buon tutto, a domani se tu coincide. Avanti Antonello per salutare Graziano. Riprendo io, scusate un attimino, Ciao Graziano, ben sentito, ciao Antonello, ciao Macchisio. Avanti Antonello, cambio. Avanti ascolto, poco fa da proprio niente. Ciao, grazie, ci sentiamo, buon coletti, buon tutto, alle prossime. Come vai così basso? Un attimo, che riprendo io, poc'anzi Antonello col portatorino, un portatile qui, come esterno, un giocattolino. Bene, c'ho anche mio nipote che mi ascolto con l'altro portatorino. Avanti, Tore. Ehi, ciao Mari, sto chiudendo, vai Tore, a domani. Sì, ok, ciao Mari, ben sentito. Oh, Giulia, io ne approfitto. A Sarra, ci sentiamo domani se tutto andrà bene. Ok, ciao Bacchisio, ciao Antonello e ciao Marino. Benissimo, ciao Tom, ben sentito anche te. E buon QVT e domani se concide. Avanti, Bacchi. Ciao Tore, salutissimi, da domani, buona serata. Ciao Marino, buonasera, ben ascoltato. Dunque, sentite l'altro giorno con le due in cosa, in frequenza? Erano forti, non arrivava a fondo scala qua. Ma mi sembrava che era una radio inserita, sinceramente, poi invece stavamo parlando, da chi? No, erano da fuori, era un ragazzo e una ragazza, gli ha detto, voglio fare quattro chiacchiere, lei gli ha chiesto prima. E quello gli ha detto, sì, come no, facciamo quattro chiacchiere. Ma arrivavano fortissimi, prima che c'erano invece no, erano da fuori. Era fuori, sì. Allora senti mio nipote, oh Bacchi, aspetta che te lo chiamo, Bacchi, mi dai l'ho chiesto, lo senti, avanti Samuele. Allora senti, siamo Bacchisio, Samuele. Antonello non mi sente, già mi sente già Antonello. Antonello. Io boh, non lo sento Samuele. Se cosa sono quei blondi, da 10 milliwatt, è meglio che lo fai salire alla, come si chiama, sotto al tetto lo fai salire. Dove sei andato la volta? Ne te la sfido, almeno l'Italia arriva. Già, no, a voi già vi sente a voi, lui magari è troppo basso. No, sono anche due portatili di quelli a blond, cos'è, blondi, capo dei giamani. Ho questa batteria che già, ma poco a poco già arrivano, dai, bassi. Bene, avanti, siamo da Chisio, oggi in campagna avete zappato, sì. Ehi, Antonio Marino, oggi grande lavoro in campagna. Sicuro, oggi si è lavorato in campagna e domani si lavora in campagna. Bene, bene, signori, io vi devo lasciare perché per me è arrivata quell'ora lì, quell'ora maledetta che bisogna sempre andare. È una condanna e lo devo scontare. Bene, ciao, no, Antonello, salutissimi, buona serata ancora, ciao Marino. Ok, ciao, ma chi ben sentito domani, se coincide, no, domani non ci vediamo perché devo uscire tardi. Avanti Antonio, per salutoni a Bacchisio. Ehi, ciao Bacchi, ci sentiamo, con quelli che vuoi tutte le cose. Andrà bene, allora Marino, sta trovando il bondi, me ne sono accorto perché sentivo questo pipistrano, ho sentito Santiago 1, mi sentivo chiamare. Poi non so che punto di sembra sono sempre arrivato. Comunque da lì a qui mi sono con quei 10 milliwatt, con due cos'è riscende. Tu figurati che io non ero giù, ero nelle piazzale, Antonio. Ero in piazzale, più di proprio Santiago 1 va benissimo confronto con la parte che sono, capito? Già va bene, dai. Voglia che va bene, che mancherebbe. Ma io li ho usati i blondini, gli avevo regalato due a cosa, tanto Dio se li ho regalato. Lui da Ossi tranquillamente arrivava, sai, da casa sua, arrivava fino al circolo di lì con via Torino, figurati tu, ma bello chiaro e forte arrivava, figurati che dove arrivano quei giocattoli, Vabbè, l'unico problema che c'è non si può staccare il coso dall'antenna, capito? C'è una specie di antennino un po' quadrato, che sono fissi. Quel problema solo c'hanno, ma comunque già va bene, dai. Abbastanza bene. Bene, Antonio, ti saluto, dai, che anch'io adesso mi stavo chiamando. Ok, a domani se concili, Antonio. Ciao, ciao. Saluto gli ascoltoni, ciao. Ehi, ok, ci sentiamo domani mattina, lì. Tanto io alla una mi sono lì via Monserrato, tu stai ancora lavorando, sarai. E domani ascoltate, sì, domani ascoltate. Perché sei a Monserrato domani, cosa devi fare? Domani ci sono i pagamenti a Domicredi, ci sono, capito? Lì in banca, quindi mi devo andare lì alla una insieme a Giuseppe Leoncino. Che mi porto il portatile appresso, mi porto, me l'attacco in macchina, c'ho la magnetica. Così almeno ci sentiamo, tu portatelo in corso, quando stai andando a passeggio, prima di arrivare a QTH Trabacco, chiama, già ti rispondo. Ok, facciamo così. Ma se vuoi vengo col camion a caricare un po' di soldi domani, Antonio, cosa dici? Magari, ci sono miei, se vuoi, se ti fai un giro la mattina, vicino a casa mia, mi. Ci sono i cassonetti che ci sono, quelli che sono rimasti già lì giù, in quelle palazzine, poi ce ne sono sì, ci sono 120 videocassette lampate, nuove, dentro una busta. Qua ci sono 100? 120 videocassette ci sono. Ah, io tutte buttate abbiamo, ma sai quante ne becchiamo nel nostro studio, che è pieno, tutte le stanno buttando via, Antonello, ormai non servono più, non hai capito? Non ho capito, il stato è strano, c'è avuto pure cassette, ma il stato non ce ne ha fatto. A meno che non ci abbiamo messo all'interno, nella parte dove c'è metalli e cose, ho capito? Ma io ho visto questa cosa di plastica, ho detto, cosa cazzo è? Controllo e ho 120 videocassette ci sono, dentro una busta, giusto? No, ma neanche una le voglio, ce ne ho 120 io, cazzo, la vera volta a riempirmi la casa delle videocassette, se la piglia in culo. No, ma nuove, mi. In scatola, con la custodia, tutto, nuove. Domani vedrai quello che passa a fare pulizia lì con la motocarrozzella, se le carica all'interno, se le porta via, le porta da quella polettana, a 50 centesimi l'una. Avvero me. No, io l'altro giorno mi ho buttato un cassone pieno, figurati, c'erano delle cassette vicino ai stalli, ai cassoni, e erano pieni. Ormai la gente sta buttando via, capito Antonio? Dunque non... Anch'io ho liberato tutto qua, figurati. Mi carico le carte di videocassette, ormai non servono più, ormai ci abbiamo i CD, ci sono altre cose. Bene Antonello, ti saluto e ci sentiamo domani se in caso, dai, ciao. Già vivo se rimetto un nuovo le videocassette, già. Allora se apriamo buona, siccome sono uscita adesso i dischi in vinile e torna, perché a quanto sembra i CD non vanno bene per il suono. Allora stanno facendo nuovo i dischi, quelli normali, gli accorciare poco io. Quindi figurati. E la gente ce li ha buttati, mi si è fatto tutto giri, 45, eccetera, eccetera. Finiamo ce li buttava. Adesso sta il luogo di comprando. Ci sono addirittura anche gli stereo nuovi, quelli con la... per metterci i dischi. Figurati, con la pennetta, in pratica poi ci metti il disco e poi con la pennetta ti registri i dischi che in pratica ci hai messo sopra uno a uno. Stanno ritornando nuovo la moda, mi speriamo. Chiaro se fra 5-6 anni nuovo le videocassette, già mi faccio un paio di risate. Ormai su Bugles la tecnologia sta cambiando tutto, Antonio. Sta tutto cambiando. Va bene, ti lascio Antonio, dai, se no se non faccio niente, dai. Ok, domani, Antonio, domani mi avvicino al camion e carichiamo un po' i soldi dalla banca, dai. Sempre la solita banca c'hai tu, sì? Tutti abbiamo quella banca, l'Unicredit, domani mattina ci sarà una fila appena passi alle 8 tu. Vedrai, si azzuffano alle 8 del mattino anch'io, a Monserrato. Io già vado alla una per quello, per sicurezza. Allora, guarda che io alle 5, alle 4 e mezza c'è già gente, Unicredit, di piazza, cos'è? Piazza cos'è? Piazza Toro, attraversa là. Quattro verso al corso, c'è Unicredit. Alle 4 e mezza c'è già gente, aspettando. In prima fila, boh, va bene, di nuovo, ciao ciao. Ehi, ciao ciao, alle 4 e mezza, vai, vai. Alla una l'ho il pranzo, tanto tutti vanno a mangiare, non penso che esatto nel pasto, quindi vado alla una e sono più sicuro, come ho fatto altre due volte. Ok, ciao, ci sentiamo domani. Ciao Antonio, ciao.